2, 3, prova, prova radio. Allora, 1, 2, 3, prova, prova. 1, 2, 3, prova radio, prova, prova. Sempre. Capa, sto facendo le prove, sto facendo, perché dice che era Saturno. Dipende dalla vicinanza, infatti i controlli migliori si danno attenuando, non capito tanto, siamo troppo vicini. Poi sì, ci sono momenti che può essere più saturo, momenti che meno saturo, dipende che, non so che apparecchi usi, quanti watt li dai, eccetera. Aspetta ogni vento che c'era prima, tu. Giù me ci fa volare la roba stesa. Ehi, chi c'ha la sventolenda in voce era? Oh. Stava sventolando forte l'antenna. Eia. E la modulazione la trovi buona, tu? A parte che c'ho la voce un po'... un po' rauca. Modulazione tutto a posto, sì. Sì, no, non c'è nessun problema. Non c'è. No, stavo regolando perché poco fa mi hanno detto che ero saturo. Stavo regolando, facendo delle regolazioni per vedere com'è. Ma ti stavo dicendo, quanto ne hai smitter tulli? Vuoi dire a quanto arriva di fondo scala? Allora, qui arriva a 9,35, di più non va e tu sei già a 9,35. Ciao. Perché dovrei capirlo attenuato per vedere se sta funzionando questa cosa. Ehi, adesso ti atteno. Allora, questa è la lancetta, questa è la lancetta. Ti atteno? Credo di averlo. Prova un po'. 1, 2, 3, prova. Vediamo un po'. Allora, tu attenuato sei Santiago 3, 3 e mezzo. La modulazione sembra che regga. Adesso alzo il volume. Fai un passaggio modulato. 1, 2, 3, prova. Più lungo. 1, 2, 3, prova radio. 3, prova radio. Sempre attenuato 3 e mezzo. Sì, Santiago 3,5, diciamo la modulazione ancora tiene, non è pulitissima però tiene, è meglio di altre volte, certe volte eri molto più saturo. E... guarda a vedere adesso. Sempre 3,5, non cambia. Capa, è tutto così abbassato quant'è? No, non ha cambiato niente, Anto, controlla bene che abbia abbassato veramente. Sì, che ha abbassato. È strano però questa storia, Aspetta, non ha cambiato da quella potenza a quell'altra potenza, non ha già madonna. No, 3,5, fisso, non si muove, Antonio. Fammi capire, ma se tu stacchi, la differenza si vede? Interrogativo. Capa, perché c'è qualcosa che non mi sta convincendo, perché se io aumento di marcia qua, deve spingere come una bestia, deve spingere. Invece questo non me lo fa a me. Ma infatti dovrebbe. Se tu hai detto che a 6 marce dovrebbe aumentare, come? Prova a staccare direttamente, a spegnere il lineare, fammi vedere da liscio a peloso com'è. Guarda, com'è liscio? No, qua c'è qualcosa che non va però. C'è liscio, sì, Santiago 3 è attaccato a 3,5. Mi pare troppo poca la differenza. C'è qualcosa che non va proprio, ma di brutto lì. Scappa, c'è qualcosa che non va, no, guarda, tutti i vati aperti, com'è? Santiago 3. È attaccato a 3,5, come può essere? Beh, che cosa di strano, eh? Ma provo, 747 provo. C'è qualcosa che non mi convince, cioè. Me lo fai attaccare un attimino? Beh, che cosa che a me non mi convinci, no? Okay. Eia, fai pure, già sono qua, tanto il computer sta lavorando per conto suo. Prova un po'. Aspetta un attimo. Test, prova 1, 2, 3, prova 1, 2, 3, prova 1, 2, 3. Vedere com'è. Allora, 3,5. Ma dimmi come sei, attaccato liscio, a mezza potenza? Sono attaccato, sono. Cioè, cosa 3,47? Boh, non mi è chiara la cosa. Eppure quale differenza le fa vedere, Anto? Qua c'è sempre 3,5, come può essere? È staccato 3. Pare strano, boh. No, c'è qualcosa che non mi torna a me. Ma scusa, da liscio quanti watt hai da liscio? Ah, da liscio così saranno, boh, non lo so quanti watt ho da liscio così. Ecco, così sì, Santiago 3. Cioè, non hai nemmeno il watt mentre tu. No, non ce l'ho. Ah, per quello non ti accorgi delle differenze. Ma mi pare ambiguo un po' la differenza. Ecco perché tu non cambiavi molto. Oh, poi può essere pure trasmettermi. Cosa ne so io? 3,5, così è adesso. Saturo è, col 147. No, direi di no. Però veramente io non riesco a comprendere nulla. La verità, non riesco a capire perché fa così. Eppure io, aspetta che cambio apparecchio, voglio vedere io il segnale se cambia. Attacco il 3009. Proviamo, perché io ho qualche dubbio, ho qualche dubbio. Cioè, qualcosa che anda in hobby dove si ha schioppietta forse. Poi c'è questo cavolo alimentatore che devo controllare il montaggio. Devo stare attento a non sbagliare il microfono, eh. Scappa, oltre 1009 quanto sono? Aspetta che ti attenuo, questo attenua di brutto, eh. Abbasso il volume dell'altro, apparecchio. Allora, fammi il passaggio, liscio e attaccato. 1, 2, 3, prova radio. 1, 2, 3, prova radio, com'è? No, e allora è lo smitter. Allora, sì, qua si vede la differenza, passi da 4 a 6, da Santiago 4 attenuato a Santiago 6. Vedi, è una cosa che non sapevo io, quindi con lo smitter là del presidente a lancetta non è tanto affidabile. Hai capito la magagna? Adesso faccio quella prova là, attacco quello là, per vedere com'è. Se c'è differenza, perché voglio capire se questa cosa sta funzionando, se no non va bene, non va assolutamente bene. Aspetta un attimino. Eia, vediamo un po' a cavarne piedi. Aspetta che alzo qua. E come mai non mi ricevo? Ah, ecco perché. Eccolo qua, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3. Test, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test, 1, 2, 3. Allora. Io veniamo al dunque, aspetta che ti attenuo di nuovo, spengo l'altro apparecchio, ecco. Ecco qua, così è attenuato, giusto? Sì. Quanto è? E tipo Santiago 3. Prima era 4 anche, adesso 3. dipende, non so, dal... prova a attaccare. Aspetta. Adesso com'è? Sì, come prima, è arrivato a, dunque, 5, 6, Santiago 6, comandante, dai. Aspetta, rimani così però, rimani così, premi la portante muta a 10 secondi. Lo so, si sentono gli alimentatori molto. Aspetta, proviamo a fare una cosa. Com'è in certa marcia? Siamo lì, Anto, siamo lì. Tu l'hai messo tutto a manetta, sesta marcia, sesta di numero 6, sì. Sì, adesso è in prima marcia. Sì, allora, per comodità mia ti ho messo, quindi a manetta ti ho messo a 9 attenuato, no? Perché segna meglio a metà scala. Quindi 9 in sesta marcia, 8 e mezzo in, cos'hai detto che era? Prima marcia. Sì, 8 e mezzo in prima marcia, 8 e tre quarti, dai, è quasi 9. Però da liscio ti voglio vedere, liscio, staccando, spegnendo il lineare. Allora, spegnendo l'amplificatore così. Modula? 1, 2, 3, prova radio, 1, 2, 3, prova radio, conta che ho passato i watt dell'apparecchio, ci sarà un po' di QSB. Allora, da 7 non modulato a 9, da 7 a 9, però se moduli passa da 7 a 8 modulato, capito? Quindi portante muta, diciamo, da 7 a 9, da 7 a 9, quindi c'è la differenza. Però secondo me rende quanto il 747, perché se tu metti il 747 c'ha due Santiago di aumento uguale. E quindi sì, se quello c'ha tante marce avrà tanti watt e dovrebbe darne di più. Quanti watt dovrebbe dare quello con le marce? 180-190. Ma può essere un B300, cos'è? Cosa del genere. Dovrebbe darne di più del 747, molti di più, forse anche il doppio. Però non c'è il tanto, no? Non pompa. Però non riesco a capire il perché. Adesso sono in quarta marcia, sono. Sì, qua, più di 9. Sai perché ti ho messo a 9 da attaccato? Perché poi lo smitter quando scende con segnali troppo bassi non segna bene nemmeno questo. Non se ne salva uno, ci vuole lo smitter del Kenwood. Ecco, così sono al massimo. Guarda, massimo 9,5. 9,5 modulato però, modulato 9,5. Lo so, se gli aumento la portata d'ingresso non va bene. Satura, vero? Ora, ora. Satura non troppo però, non troppo. Io ti ho sentito molto più saturo. Però è come se oscillasse il segnale leggermente, forse il vento per l'antenna, mi. Oscilla un po' 9,5, 9,5. Perché c'ho i... Aspetta, appena. Perché stavo toccando il watt, cioè c'ho i watt molto, molto bassi, capito? Lo metto quarta marcia, basta, quarta marcia. No, adesso andiamo spengo perché tanto cosa... Non venisce uno, ma bomba. No, era solo per fare delle prove, era, capito? Ma è strano, sono strani, i risultati sono ambigui, perché prima eri 9 spaccato, adesso 9,5, poi ogni tanto oscilla un po', è come se qualche contatto da parte mia o da parte tua non fosse proprio costante, oppure il vento che muove l'antenna. C'è un pochettino di QSB, vedi? Adesso che sono normale. Io ho fatto togliere questo, forse mi devo fare così, guarda. Ecco, così va bene. Sì, sì. 8 e mezzo, dai, da 7 a 8 e mezzo. Certo, qui non c'è niente. Eia. Vabbè. Ok, sono un po'. sì, più di tanto comunque, poi l'alimentazione, io vorrei sapere, sono curioso di sapere se quell'alimentatore switching, no? Quello piatto che hai tu, quando assorbe ampere, se ha un crollo di tensione oppure no? Cioè bisognerebbe misurare i volt, così, in ricezione oppure in trasmissione con lineare a manetta, e vedere se ha un crollo di tensione, perché certe volte li fa così, più ampere assorbi più scende di tensione, ma non è detto, dipende come è fatto. Sai cosa è? Che c'è quello là che dovrei metterlo a 13,5 volts per essere giusto, hai capito? Solo che non ho il tester, me lo devo comparare, devo metterlo giusto, lo col tester, cioè con la vitina, allora sì che dovrebbe andare di più. Sì, c'hanno un trimmer per regolare i volt, però devi avere il tester, sì, perché sicuramente lavora meglio a 13,8, poi anche lì, quelli affari sempre più aumenti volt e meno aperti danno, è un po' un compromesso, dai, quel tipo di alimentatori. Bene, vediamo il computer a che punto è, allora io stacco, dai. Però che palle con lo Smitter, boh. Sì, è che non mi segni una differenza di 2 Santiago, è ridicolo, vabbè, baracchini sono, baracchinacci. Ma sicuramente, vai tranquillo che come ti sto dicendo io, sicuramente non mi sta dando potenza perché devo aumentare qua, devo dargli volts, cioè almeno a 3,8 sicuramente gli devo dare, per a chi se ne ha bisogno di un bel di ampere hanno bisogno per pompare. Sì, il tuo è da 30, no? Sì, è da 30, però magari c'è 12 volts, non ve la fate. Ma poi mi chiedo, questi alimentatori switching piatti, no? Che dichiarano 30 ampere, quante ne riescono a dare effettivi? Magari i controlli effettivi ne dà 20. Capito? Bisognerebbe applicare un carico, controllare anche la tensione in uscita. Che è inutile che magari gli ampere li dà ma crolla di volte, capito, di voltaggio, e ci vorrebbe strumentazione, un tester almeno, non so, prenditi un tester dai cinesi, anche piccolo mi va bene, almeno per avere un'indicazione dei volte da regolare, degli ampere, eccetera. Mi sto stiracchiando, un'altra giornata del Mengami, per carità. Adesso me lo piglio un tester e li voglio controllare quanti volt si esce, perché secondo me no, è l'alimentatore che non mi sta sviluppando tanta potenza come voglio io, e va un alimentatore buono, il tuo, che ti fa spingere, secondo me è roba di alimentazione, non ce la fa, non riesce a sviluppare. Poi ci vorrebbe un wattmetro, ma tu avevi un rosmetro per le stazionarie, no? E il rosmetro avrà anche il wattmetro incorporato, no? Sì, ma è piccolo, non ce la fa a misurare con la potenza. Ma cosa c'ha? 100 di fondoscala? Non va oltre? Non lo so, di quelli piccolini, quelli della Intec, capito? Oh, misurando le stazionarie misura anche molto bene, però a fare queste cose il minimo ci vuole un diametro, cioè ci vuole uno strumento che sia di tutto di cappello, capito? Sì, il Diamond SX200 è carino, prezzo abbordabile, è solo che anche lì c'ha solo 200 watt di fondoscala, 200 watt massimo, non è di quelli da 1 kW a 2 kW, anche quello c'ha un po' di limite se vuoi usare lineari grossi. 200 watt poi saranno, presumo, di picco, continui a reggere anche meno. E vabbè, comunque ho scoperto che lineare mio, no? Allora, idrometro piccolo, wattmetro piccolo, mi segnava 70-80 watt, no? Invece no, palle. Quello che è arrivato ieri, buon, più professionale, con 4 watt ne dà 56 di watt in M. Quindi circa 4 in ingresso, fai 3,9 in ingresso, te ne dà 56 in uscita. Senza buffonature. Invece gli altri grossi watt, mentre quelli da 13 segnano un bel di watt, ma non sono, sono fasulli, capito? Già lo so già. Mi sveglio nel letto, mi metto, accendo l'altro apparecchio per... una giugana, chissà così, pulsato. Io non ho giugana di nulla, né di uscire, né di nulla, nulla. Domani esco, mi faccio una bella passeggiata, dovrebbe essere discreto il tempo anche. E vado anche a fare la spesa, perché siamo a corto di bottiglie di acqua grande, frizzante. Bene. Ok, per esempio, comunque stavo dicendo, quello che conta poi sono i watt che dai in banda laterale, perché quando fai DX, se li farai, in banda laterale rende meglio, è un po' più silenziosa la radio, meno rumorosa, riesci a raggiungere distanze migliori. Quindi se ne è, il mio ne dà 55 di watt, ho provato in banda laterale, picco picco sono 100. E scappa. Va bene con 4 watt, esco bene? Un bijou. Riesci a mettere un cuscino in onghi che ti sta più bene. Sì, ma è così, col, come si dice? Che ce lo chiudiamo, modo da. È così, cioè con un coso professionale è molto più bene. Manco si muovono le stazionarie con 4 watt. Sì, ma infatti anch'io mi sono reso conto che le stazionarie mie sono più ottimistiche di quanto pensassi. E c'era quel rosometro piccolo della Proxel che segnava molte più stazionarie. E... come dire, lo strumento coso mi sono reso conto che l'antenna non è così stretta di banda, meglio di quanto mi aspettassi, dai, e quindi sui 40 canali non si muove, è impercettibile sul 40, ma impercettibile, non arriva nemmeno a 1,1. Non l'hai pagato con lo strumento lì? Beh, 144 più la spedizione. Ah, ho capito, è buono comunque come prezzo, vabbè, ma sono strumenti che alla fine ti durano una vita e non si rompono mai. È enorme, però sai cos'è? Io volevo pigliare il Proxel, il Diamond SX200. Però anche lì cambi banda, gli devi tarare il fondo scala ogni volta, invece li aghi incrociati e ti dà la lettura diretta, watt stazionarie, capito? Cambi di banda in qualsiasi istante, è istantanea la cosa. E di una comodità, poi lo strumento è enorme. Siccome io ho un abbassamento di vista, non vedo bene più come prima, lì anche se stai a un metro vedi benissimo, è illuminato, è un bijou. Proprio lo strumento è enorme. Poi regge tanti watt, cosa che io non uso, fino a 2 kW picco viene. Quindi ho voglia di provare in lineari se dovessi, ma non è il mio caso. Kappa. a voi sì, e poi di Santa Innase, spingi troppo, non va bene, non va assolutamente bene, ci vuole un'antenna che vada, capisce? Lineare grossi grossi non ne puoi attaccare lì. Io il massimo che posso attaccare, io c'ho un 30 ampere, quelli Proxel, no? Per esempio il 503 di Gianni ancora dovrebbe andare, magari non a piena potenza, ma credo che 200 watt effettivi li tenga. Tanto io ho il cavo grosso, ho l'RG213. L'antenna è il coso più blando che c'è, capito? E lì più di 200 non gliene puoi dare. C'è una bobina che sembra un'antenna da macchina. Il punto debole è quello lì. Però mica sono un bel comunque anche 200 watt in AM. Ui! Voglio fare di ex. Già non credo che sono un bel. No, io la mia già tiene, a voglia. Già la conosce. Ma ti dico la verità, sono contento di questa qua. Mi sto trovando veramente bene. Non mi dà problemi. Invece solo quando piove un pochino le stazioni risalgono, perché vabbè l'antenna viene bagnata, per quanto io abbia isolato tutto, un po' influisce presumo comunque là. Quando c'è quella pioggia torrenziale, che è proprio l'antenna è frasica, è completamente, cioè viene continuamente bagnata d'acqua, quindi un po' salgono, capito? Quello che non so è se entra acqua nella bobina, quello non lo so. Io avevo comunque vulcanizzato anche la parte alta della bobina, perché giù ha il foro di sfiato, per forza, mi pare qualcosa deve sfiatare. La condensa anche no, deve sfiatarla quella. E vabbè, da vedere, comunque c'è già 6 anni e mezzo questa antenna. Credevo che non sarebbe durata più di 3 anni, francamente. Chi l'ha detto? Dura, sei tranquillo che dura. Ma anche questa lo fa, un pochino aumentano, ma non ribalti niente. Alla fine sono... Cioè, a me non mi ha mai bruciato una radio qua. Non mi ha mai fatto danno. Sono stazionari così, mi... Dico, la verità ti dico. Ma non li fa di niente, no, non li fa niente, la verità, assolutamente. Poi ho verificato che il centrobanda non è messo così male, il centrobanda è sul canale 12, cioè da 26,2, no, l'ho misurato, che ne so, 1,4 a 26,2, e 1,4 alle soglie dei 28, no? 27,995, poi è banda amatoriale, no? E anche lì 1,4, più o meno, circa è 1,4. E quindi risulta il centrobanda esattamente sul canale 12, sul canale 12. Però appunto entro i 40 canali non si muove minimamente, nemmeno 1,1. Antenna asciutta naturalmente, le ho fatte le misurazioni ieri col sole, quindi antenna bella asciutta. Perché se è bagnata aumentano, ma io penso di disobbedienti, penso che un po' a tutti, poco a poco, ma chi c'è chi più chi meno gli aumentino un po', un'antenna bagnata, poco, però lo fa, ma ci sta, ma non li fa di niente, alla fine non li fa niente, e molti si preoccupano troppo. Ah, se tu la, questa qua, questa che io, se tu la stai bene a 1,1 come te la sta questa, anche se ti salgono un po' non li fa niente, usi meno watt, un po' di meno di potenza, non li fa di niente, cioè, tutto lì il discorso. Allora, tutti va bene. Sono contento, sono di questa qua, sono contento, dell'altra un po' meno, sono stato contento, questa qua sono molto contento, no, non gli posso dire niente. galassia. Sì, praticamente quella che hai adesso è, dovrebbe essere la Ringo, vecchio modello. È probabile che sia, ma qual è il vecchio modello, della LEM o della Eco Antenne? LEM. LEM, sì, poi ha cambiato le, come dire, ha fatto una modifica e l'ha rovinata, infatti era meglio il modello vecchio, cioè anziché migliorare vanno a peggiorare, non mi capisco. Ti volevo chiedere, ma c'è qualcuno che sta russando lì, si sente proprio, ti può russare? Sara è addormentato. Eia, a Borgia quanto è sensibile il microfono mio? C'ho 10.000 c'ho, non è che abbia chissà cosa. Sì, ma è molto sensibile di M1000. Io ho lavorato già nel mio perché non lo usavo. Mi si era rotta, vabbè, l'attacco della pila da 9. E quando lo mettevo a manetta, caspita, sentiva tutti i minimi rumori. Tutti. Tutto quanto. E dava una, dava una modulazione corposa anche. Più corposa, mentre quello ZG, no? Quello da palmo, da toni un po' più alti, medio alti, invece il DM1000 è medio bassi. Ok, tanto io adesso stacco, non so, sbatterò la testa da qualche parte, qualcosa farò, ce ne sarebbe da fare qua, però non ha giù gana di nulla, proprio. Dai, sentiamo più tardi se capita, ok? Ci sentiamo, ciao Anto, ciao. Ciao, dai, ci risentiamo, ciao ciao. Chi c'è poi sotto? Sono io, Roberto, mi ascolti? Adesso sì, no, vi siete sovramodulati a vicenda. Ciao Gianni e ciao Gianfranco. Avanti a te Gianfranco. Sì, ciao. Avanti Gianni, stai provando, ti ho visto un po' qua, un po' là. Allora, io faccio sempre così, quando lasciano le radio le provo sempre. Le faccio scaldare per le provo. Stavo controllando stazionare, tutto qua, era tutto a posto. Andare. Avanti Roberto di nuovo. Buonasera. Solo voi due ci siete o c'è qualcun altro? Non ho fatto ascolto, ho appena acceso. No, siamo solo voi, non c'era nessuno. Siamo entrati tutti e tre insieme. Così cacchio. Che si dice di bello? Che argomenti abbiamo oggi? Senza bisticciare però, sennò guai. Bisticciare? Chi vuole bisticciare? Io apparecchio facendo un po' di scusa, mi faccio sentire la canzone. Cos'era tutto quel macello? Io non ho sentito niente neanche. Ho sentito voci sottofondo da Gianni, non so se era qualche registrazione o qualcosa. Boh. Non ho capito neanche io. Niente, oggi non c'è neanche un filo di preoccupazione. In compenso c'è questo disturbo che sta arrivando da Monteoro, qualche radio libera, tutta sta razza che fa veramente lo schifo, per carità. E su che frequenza è, per curiosità? Eh beh, 8808 sarà, ma arrivando fin qua di quanto è sbrodolata. No, perché c'è, anche se credo che abbia diminuito la potenza, RDS stava uscendo con 50 kW da Monteoro, era la più forte di tutti, perché le altre sono intorno ai 10, la RDS ha 4 kW, quella ha tirato fuori 50 kW, e da Montalbano esce con 42 kW, con 40 kW, però forse ha diminuito, secondo me era troppo spaventosa quella potenza, non è necessaria. No, le potenze sono abbastanza alte, sempre a cubi di kW su quella banda, però... insomma, se già te ne vai a Montalbano, sei vicino alle antenne dei vigili del fuoco, degli altri, eccetera eccetera, qualche disturbo glielo fai, e quelli controllano sempre, sono ogni giorno fanno le prove, quindi se ne accorgono se c'è qualcosa. Sono esagerati, ma speriamo che passino tutti quanto prima in coso, in dato, così almeno se escono fuori dalle palle, perché sono veramente micidiali. Ma DAB sta uscendo solo, che io non ho capito con quale logica, solo da Monte Alvaro esce, Monte Ora non è ancora attivo il DAB, infatti la cosa strana, cioè la copertura di Sassari la dai da Monte Ora, non da Monte Alvaro, infatti qua arrivano molto bassi i segnali, perché escono con bassa potenza in DAB, e non ho capito per quale motivo stanno modulando da coso, da, come cavolo si dice, da Monte Alvaro anziché da Monte Ora, che è più logico, fa un po' di pulizia almeno. Sì, ma Monte Ora sta diventando una cosa incredibile. No, per carità, se per poi vai a vedere, certe antenne non hanno manutenzione, sono tutte a penzoloni, tutte messe, ma veramente è una cosa allucinante. Sì, quello è vero, ma ti hai presente, molte di quelle antenne sono in disuso, almeno 3 o 4 postazioni sono in disuso, però le avrei fatte tu, è anche, non dico un pericolo, però non è bello a vedersi, ci sono delle postazioni di stazioni private, non nazionali, locali, ma che fanno ridere, ti vedi tutti i dipoli spaccati in due, e rovesciati in terra, come hai detto tu, e addirittura in certe ci sono ancora le attrezzature dentro, perché le conosco più o meno, le postazioni le conosco tutte, tanto ormai i regionali e provinciali non ce ne sono più, c'è solo regionali. C'è Radio Sintoni e coso, e Radiolina, e poi attaccato adesso Super Sound, se lo ripete, da Monte Oro, però tutte le altre sono tutte nazionali, dei network nazionali, ormai moriranno tutti, mondo di coso, Radio Zero trasmette da coso, ma si chiama, da Grattacielo insieme all'altra, la Temmiele. Sì, avanti Gianni. Ho sentito voci poco fa, speriamo non sia successo niente. Oh, non è vero. Dicendo, sta succedendo tutto di più veramente su Monteo, è un bordello micidiale. Guardate che quasi tutti quelli che sentono, compreso quando passo io, c'è un punto di Monteoro in cui il cellulare non funziona più, ma di tutti, c'è un pezzettino proprio, evidentemente dove arrivano le spurie o segnali fantastici, c'è un pezzettino di lì, passi lì, boh, chiuso. Che avanti? Ah, generale Croce, allora portante. E a voi l'avete riconosco. Ciao Cla, compagnia mia di Gianfranco e Gianni, che non so se è allontanato, c'era pure. Ti parte Gianfranco. Ciao Cla, come te la passi? Mi sono stato poco fa. Ora il po' giro abbiamo fatto, niente di che. Visto. Passato l'antenna a questo Inter che 3104, diciamo che stia andando, non sono in cuffia, no? Spero che stia andando, io non ne ho rientri lì a Monteoro, io ci passo l'estate col baracchino, col VHF, adesso manco VHF c'è più, ma comunque io non ho mai avuto nessun disturbo. Grazie a Dio, non sono tutti i giorni, io ho qua, ma evidentemente col maltempo e col click and track c'è qualcosa che sta andando male e stanno disturbando su, in alto, in basso, a destra e a sinistra. Qua sono segnali, dato che non sono molto vicino a S3, però non so, ci sono stazioni basse e basse, qualche fastidio danno. Comunque, non è niente di particolare. Ti volevo dire una cosa, ma vabbè, appena arrivo. arriva Talarico? Non so, dilla, non so. Va bene, va bene. Ok, avanti Roberto. Ehi, allora ti sto attenuando perché sei un bel troppo voce da parte mia. Ok, adesso facciamo vedere se è entrato Gianni, che l'ho sentito prima, poi di colpo si è allontanato. Gianni, avanti, se ci sei o chiunque altro vuole entrare. Tu, vai tu di nuovo Gianfra. Sì, ecco, devo dire a Claudio che c'è qualcosa che non va, non ti sento benissimo Claudio. C'è un qualcosa vicino, tipo elica, ventilatore, cos'è? L'alimentatore, quello grande della switch, che l'ho dovuto spostare lì per alimentarmi due radio a 12 volts, baracchino veicolare e l'altra a 12 volts. Ma non stai usando il buzzer, Claudio? Sì, sì, però c'è l'alimentatore acceso. 7104 è quello che ho anche io, quello nero leggermente inclinato, quello lì. E io, quello lì. Hai sistemato? No, non aveva niente, era un problema di cavo. Torniamo al discorso che avevamo sempre. Praticamente io avevo dalla commutazione della scrivania base, no? Dai commutatori Gianfra, per capirci quelli che mi hai dato tu, che sono eccezionali, veramente stanno facendo un grande lavoro rispetto a quello che ho comprato, 50 euro, che non serviva a nulla. Da lì c'avevo uno spezzone di RG58, vabbè, con i PL nuovi, uno spezzone nuovo, proprio nuovo nuovo, perché in maniera avanzata, non so, forse da un deposito che avevamo fatto, comunque nuovo. Cosa sto dicendo? Comprate PL 5 metri di cavo di RG58 nuovo, così. E siccome deve passare all'interno della zoccolatura, e poi va a chiudere, perché io c'ho lo zoccolo in legno, e quindi c'è la battuta, l'ho appoggiato dentro, poi ho chiuso la zoccolatura e non si vede niente. È portato lì. Questo 5 metri di RG58 mi ha fatto impazzire. Qualsiasi microfono fischiava, innescava, faceva, rientri, balli, guarda. C'è Gianfranco qua che ha vissuto quegli attimi insieme a me, che mi diceva sicuramente quello, sicuramente quell'altro, sicuramente. Un spezzone da 5 metri. L'ho tolto, fatto a pezzi e buttato via, perché io RG58 non ne ho. L'unica cosa che volevo fare era questo, per essere un po' più. Ho dovuto mettere 5 metri, 4 metri e qualcosa di H1000 con i PL nuovi di nuovo, dai commutatori alla seconda base, alla seconda scrivania dove ci sono i baracchini, risolto il problema. Una cannonata. Torniamo a parlare di questo RG58, che cosa fa in 5 metri? Immaginiamoci in 30 metri. Purtroppo è un cavetto molto economico, poco isolamento, eccetera. Dove si riesce ad arrivare col cavo grosso è sempre meglio utilizzare cavi grossi. Io ho certe ispezioni piccolini, passaggi di 30 cm, neanche li ho fatti in RG58, però la linea principale è tutto cavo grosso, 213.000 utilizzato. Un po' rigido, tutto quello che vuoi, però almeno i problemi te li risolvi. Almeno te le attivi, non dico te le risolvi, ma li riduci tanto. Avanti a te Gianfranco. Sì, okay, ti volevo dire, non so se dipende da me o da te, ma dimmi una cosa, quell'apparecchio l'hai acceso adesso, era spento, perché io ti sento bene andando più sotto, come se fosse ancora un po' fuori frequenza, non so cosa sia, ma può darsi che magari è un apparato che è freddo o chissà cosa, però la voce non è la tua, ecco, non è la solita che sento. Ho anche allargato i filtri, ma niente da fare. Allora, aspetto anche l'alimentatore, ma no, non lo so già, fra questo è un Intec 3104 AF, la radio è nuova, no? Non lo so se qualcuno ha toccato e l'ho preso già, stiamo parlando di vita, c'è già fra, non puoi chiedermi la perfezione con queste radio, abbi pazienza, lo sai che ti voglio bene, però è uno stress continuo. Non puoi chiedermi, non lo so Gianfra, sono delle radio di 30 anni fa che funzionano perfettamente, però se sono leggermente spostate, stiamo parlando di radio vintage, radio da collezione, che fortunatamente sono tutte funzionanti, quindi prendete con il beneficio di inventario la mia modulazione, le mie capacità un po' generali, non stiamo parlando di radio come parlo normalmente, ogni tanto mi butto a questi baracchini, c'è quello che esce meglio, c'è quello che è più perfetto, c'è quello che esce peggio, però queste sono già fatte, questo è un intake base, un V3104. Adesso ho messo il delta tune a metà, non lo so se ha cambiato qualcosa, non lo so, era portato tutto a sinistra, lo mettiamo tutto a destra, vediamo se cambia qualcosa o lo devo mettere al centro, non lo so Gianfra, purtroppo questa è la radio, non so cosa dire. No, io te lo dico perché di norma lo puoi anche sapere tu, poco fa era 0,72, quindi noi siamo a 75, quindi ti sentivo bene a 72, più o meno come al solito, adesso sono di nuovo a 75. Quindi adesso va bene, non lo so, ho spostato il delta tune, c'è questa cosa, delta tune, non so cosa serve, l'ho messo al centro, non lo so, io prima di entrare in radio mi ascolto sempre in cuffie, mi dà quella sensazione, insomma, che tutto vada bene, poi se c'è qualche imperfezione, ripeto, sono radio vecchie da collezione, che però in linea di massima funzionano tutte, quindi se c'è qualche imperfezione, prendetela così, no? Non so cosa dire. Avanti, Roberto. Ho staccato l'alimentatore, sì, c'era il coso attaccato, ma sono accorto. C'era l'alimentatore anche che alimenta quella ventola più forte che sentivi. Era l'alimentatore che alimenta l'amplificatore, perché stavo facendo le prove nel pomeriggio e l'ho lasciato acceso. No, già va bene adesso. Tolto anche l'attenuatore, grazie ascolto. Non c'è il problema. C'è qualcuno, vediamo sotto se qualcuno vuole entrare nel frattempo. Avanti sul 10. Allora, riprendetela tu, Gianfra. Una domanda, ho visto su internet, probabilmente è la radio che stavi parlando tu, che fa da 0 a 30, anche confuso anche sulle 11 metri. Cinese, che ha l'analizzatore di spettro, la cascata del coso della banda, eccetera, eccetera. 10 watt. Quello lì che però non è disponibile come radio, bellina, c'ha un bel display tridimensionale. Ma guarda, l'ho visto anch'io e ce ne sono di varie marche, poi magari è sempre la stessa, però non ne parlano molto bene, perlomeno per le poche recensioni che ho letto, perché bisogna vedere anche se in realtà è questo analizzatore di spettro, se di quelli un po' così. Se proprio devi prendere delle radio ti consiglio le ultime uscite della Icon, almeno quasi sicuro, ecco, una cosa, certo costano care, come sempre la Icon, però ultimamente a calette prezzi danno prestazioni notevoli, sono quasi tutto che sta togliendo qualcosa di loro. Con l'analizzazione di spettro in real time se ne parla molto molto bene, sia come ricezione, sensibilità, tic-tac, eccetera eccetera eccetera. Ok, riprendi Claudio, oggi mi sono accorto che continuo a avere molta ferraglia in mezzo ai piedi. E tu chiami sempre questa cosa che è mezzo a piedi ferraglia, e ti dico, come ti ho detto l'altro giorno, che quei commutatori che tu stavi per buttare dentro la mondetta stanno facendo il suo lavoro, sono eccezionali, molto meglio di quello che ho acquistato io, la verità, e chiudono bene perché io ho fatto delle prove, chiudono molto molto bene rispetto a quello che ho preso io. Guarda, le fa 7-0, con tutto che per te la professionalità, per come ti conosco, è un'altra parola, però io mi accontento di queste piccole cose, anche perché stiamo parlando di queste radio che ti ho detto vintage, quindi insomma vanno bene. Comunque ho messo il delta tune a metà, prima era a sinistra, ti ascolto anche meglio di modulazione già fa, quindi sicuramente era quello, non lo so. Avanti, Roberto. Perché avete commutatori a più di 3 uscite per caso, però buoni, qualcosa di buono? No, Gianfra, questa radio che ho vista io è una radio piccolina, diciamo, tipo un baracchino, e c'è anche oltre all'analizzatore di spettro la cascata Waterfall, il come si chiama, DMR, cioè il sistema digitale, trasmissione digitale, DSP, c'ha tutto, una radio completa, però non è più in vendita, non ho capito perché l'hanno bloccata, la vendita, dice, per il momento non disponibile, però è bellina, è piccolina, tipo un po' più grande di un ala 48, dai, con un po' più alto, un po' più largo, con un bel display bello, grande, touch screen, bello. Penso che non costi neanche più di tanto, faccia solo 10 watt, ma la radio carina. Tornando a lui, c'è perché dei commutatori dell'antenna più di tre posizioni, Gianfranco? Sì, ce li avevo, ma li ho scaricati a Claudio, per lui vanno bene, questo non può che farmi piacere, ma per lo standard che ho io non... gli unici che sono passati, oramai ci sono una marca, o meglio ne ho due, cioè avrei anche un MFJ che prima o poi, secondo come te va, parte lui, solo che l'unico che si trova in commercio mi sa che può garantire due sistemi di commutazione, come avere due commutatori attaccati, in parole povere, quindi riesce a gestire 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6, 6 e 12 antenne. Mentre gli altri sono tutta una ragosa, sono gli Alfa Delta, che sono molto nominati, che sono veramente fatti bene, proprio virgola maiuscola, niente a che vedere con l'altra marmaglia che trovo in vendita, che veramente stanno scendendo di qualità, non tanto, molte cose stanno scendendo di qualità. Guarda, l'apparecchio non ti posso che consigliare, guarda, se vuoi qualcosa di piccolo, che sta riscuotendo un grande successo, ripeto, con un serio analizzatore e il nuovo IC, che c'era qualche mese, credo, IC705, che è grande quanto un portatile, no dai, è un po' più grande di un portatile. Però c'ha le stesse batterie dei portatili a litio, che durano anche parecchio, mi hanno detto, e fa sia tutte le HF e sia VHF e UHF al suo interno. È un apparecchio veramente leggero, fa 5 watt a batteria e 10 watt se lo colleghi alla corrente. È l'ideale proprio per andare fuori, per fare analisi, per... insomma, per comunicare ci attacchi un'antenna o monobanda o bibanda o tribanda o multibanda, quello che ti pare, però c'hai mezza stazione radio appresso. Credo che la Media Globe ti regalasse anche compreso alla radio anche lo zainetto, no, fatto apposta per quella radio. Non c'ha accordatore, quindi gradirebbe uno dei nuovi cosi accordatori d'antenna, che sono minuscoli, alimentati addirittura da una batteria 9V. Costo 1450 euro, quindi non è neanche così caro come si può immaginare, considerando che è un quadribanda. Ok, no, è venuto il discorso perché l'altro giorno hai parlato di questa radio che stavi utilizzando tu, di nuova generazione, che fa anche i modi digitali, che l'hai utilizzata anche qua sugli 11 metri. Pensavo che fosse quella radio che ho visto io, fosse quella che stai utilizzando tu l'altro giorno. Ok. No, non rispondo ai requisiti che chiedo, semplicemente a me occorrono radio particolari, lo sa cosa, Claudio, perché sono molto giriato e fatto infine. Claudio, ti devo scaricare una cosa grande, devo venire io con l'autocarro, la vuoi? Spero che non sia quello che ho visto l'altra volta. In Gianfraio non ho problemi, ci sono cose da mettere qua su, anche non funzionante eccetera, io sono collezionista un po' di tutto, mi fa piacere, ma già ci sentiamo al telefono, dai, non ti preoccupare. Ok, semmai se vuoi ti chiamo. Sì, è proprio lì, lo sapevo che l'immaginavo. È molto lì, sì, è lì, funziona regolarmente come avevi potuto vedere, però non c'ho spazio, sono disperato, non c'ho spazio, anche sulle serie c'ho roba, non riesco a farla fuori, veramente sì. a fare pulizia guai, però devo smobilitare perché se arriva la roba nuova poi non so più dove metterla. Ho avuto un colpo veramente, come si suol dire, lì, a riuscire a dare molto bene il 7-4 e poi adesso neanche me lo ricordo. Ah, ho dato quelli nuovi in garanzia che avevo comprato, che non valevano un tubo. Purtroppo, anche se se li paghi 300-400 euro, anzi 400 costavano, ma vedi che sono scadenti, proprio scadenti. Erano dei bibanda, ma è rimasto solo uno, è un portatile della stessa marca. Però devo dire, vabbè, quelli me l'hanno deprezzati in una maniera micidiale, cioè ti vendono a 400 e poi te ne danno 150, guarda, in garanzia, prodotto in garanzia, è allucinante. Comunque l'importante è sbarazzarsene prima di trovarsi in mezzo ai piedi. E così, commutatori credo di non averne altri, però c'ho anche, la casetta che carica di riparecchia roba. No, perché io ho questo commutatore che ho io, non è un gran che stacca, ma non è come lo voglio io, quello, come dice Claudio, efficace, che proprio ti taglia tutto. Quello del Magnum interviene sull'altra linea, quello già è buono perché ha le chiusure ceramiche, diciamo, è un bel prodotto, l'MT3000, ha a quattro posizioni il commutatore, però quello lo utilizzo per un'altra linea, perché ho le linee separate. Una domanda, questi commutatori che c'hai tu sono la gabbana, nel senso che hai dato tu o che ci avevi tu, fanno anche le bande più in alto, diciamo? Sì, li utilizzo proprio per le antenne VHF o VHF, perché hanno una bassissima attenuazione, perché sono fatti come Dio comanda, perché gli Alfa Delta, oltre ad avere tra l'altro questa bella connotazione a scatti, man mano che commuti ti mette in cortocircuito tutte le altre prese di antenna, che vuol dire che non c'è pericolo, non ci dovrebbe essere pericolo che qualche scarichetta di quelle cattive mentre sei su un'antenna magari entri dall'altra. Inoltre c'è una protezione in più, c'è le pastigliette antistatiche, quindi se entra qualcosa di un pochettino più preoccupante la valvoletta, diciamo, esplode e mette in corto anche l'antenna che stai usando. Quindi è molto molto molto fatto bene. Dalle prove poi tecniche ho visto che c'è un'attenuazione veramente più che accettabile, si può usare anche intorno ai 1000-1500, dovrebbe ancora andare bene. No, perché io ho due ricevitori e purtroppo, perché non mi sono fidato a mettere un commutatore, a parte che non sono neanche quello che c'avevo io, il 7000 direi che è l'altro ricevitore, quello più grosso, e ho dovuto mettere un barilotto perché non avevo possibilità di utilizzare il commutatore, però c'è una perdita impressionante. Dipende dal tipo, Okay, se no non vai a fidarti dei barilotti, certi barilotti. Carità, guarda, è una cosa che non si crede. Ma io mi ricordo quando li compravamo, quelli, eravamo giovani, diciamo, c'era roba molto, ma molto più sicura. Adesso, se non stai attento, o sono sfilettati e non c'entra il coso, oppure ti rimane la parte interna mezzo tagliata, guarda, io non so, anche i negozi fanno arrivare questa porcheria. Guarda, io non mi uso di questa roba, capito? Non mi uso perché no, l'unico lavoro che ho fatto, che pensavo fare una cosa fatta bene, insomma, 3-4 metri di cavo fine, li ho messi lì, ben messi, ben fatto, con il PL nuovo, fatti nuovi. Ma non mi ha combinato, mi faceva un casino lei. Ho comprato due microfoni nuovi ho comprato, un più 4 e un più 5, perché pensavo fossero microfoni, ma invece lo faceva lo stesso, infatti mi sono anche incazzato, ho buttato via i soldi per niente, capite? E poi alla fine, andando per esclusione, ho detto, ma vuoi vedere che questo pezzo di capo? Sono salito sui mansardi, ho preso 4 metri di H1000, mi sono messo i PL nuovi che ce li avevo già, e senza metterlo a posto niente, l'ho acquisito il volante, l'ho passato da una base all'altra, risolto il problema. Ho detto, ma guarda, su 4 metri di cavo di guarda, lascia perdere. Immaginiamoci cosa combina in 30-40 metri quel cavo non serve a niente. E quindi l'ho tolto, ho messo la H1000, come c'ho la discesa del cavo sulla mantova, e anche sul coso lì, sulle HF, che tra l'altro non ho più. È il problema risolto, fatto, tutto a posto. No, nessun fischio, nulla, nessun innesco, neanche con l'amplificatore. Con l'amplificatore non lo vedremo. Una cosa allucinante, ma l'amplificatore è da 13, un B300, giusto per...